Innanzitutto vi ringrazio di essere qui, ringrazio la biblioteca per avermi accolto un'altra volta con i miei lavori. Io sono un fotografo con la passione della ricerca, quindi parto sempre nei miei lavori con una documentazione fotografica, vado a cercare magari delle storie, vado a cercare delle cose che non sono più tanto evidenti. Mi piacciono molto gli ambienti abbandonati, i luoghi chiusi, e quando entro in questi posti e vado a fotografarli e documentarli, poi mi viene anche la voglia di andare a scoprire la storia di questi luoghi. Ho iniziato, io lavoro in provincia, sono dipendente provinciale, quindi ho iniziato questo lavoro in provincia, come ha detto Patrick, abbiamo iniziato nel 2005 con l'andare a riscoprire tutti i bunker del Vallo Alpino. Poi abbiamo proseguito con una ricerca storica delle strade militari che corrono tutte lungo il confine della nostra provincia, dove poi troverete appunto queste ubicazioni. E poi negli ultimi anni mi sono concentrato di più sulla ricerca della città di Bolzano. Quindi sono andato a riscoprire i rifugi antiaerei che ancora sono presenti nella nostra città. Sono andato un po' a studiare quello che era successo in quegli anni, ho avuto l'archivio del comune che mi ha aperto i faldoni, ho potuto vedere i documenti e quindi adesso ho fatto questa relazione che poi è stata inserita in questo libro. Il primo libro è uscito 2 anni fa, era una versione più, diciamo, più piccola, che contiene solo la storia dei rifugi antiaerei e delle postazioni di Bolzano. Il libro è andato bene, l'editore ha voluto fare una seconda edizione di questa pubblicazione, che è quest'altro libro che è qui, e il mio studio è stato messo assieme allo studio di un altro storico di Milano che si chiama Sebastiano Parisi. Lui ha fatto una ricerca su tutti i bombardamenti degli alleati sulla linea del Brennero, quindi da Verona fino a Innsbruck. L'editore ha preso i nostri due lavori, li ha messi assieme e ha pubblicato questo secondo libro. Adesso vi racconto un po' la storia di quello che io ho scoperto. Partiamo dalla fine degli anni 20 e chiaramente arriviamo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, nel luglio del 1928, quindi partiamo nell'estate del 1928, la Commissione Internazionale della Protezione Antiaerea Italiana redige un primo regolamento per la difesa contraerea del territorio nazionale. La difesa contraerea si divide in due. Abbiamo la difesa attiva e la difesa passiva. La difesa attiva è affidata all'aviazione, che difende i nostri cieli, e alle armi contraeree, mentre la difesa passiva è quella che si occupa della protezione degli obiettivi da difendere. Le principali forme di protezione che sono presenti in questo regolamento, in questo primo regolamento, sono innanzitutto il servizio di propaganda, il servizio di allarme, il mascheramento e l'oscuramento degli obiettivi, i ricoveri antiaerei, poi abbiamo la protezione sanitaria, la protezione antincendi e la protezione antigas, e infine la tecnica costruttiva antiaerea, come vedremo poi più avanti. Con l'entrata in vigore di questo primo regolamento si viene a sviluppare in Italia, in quegli anni, la nuova, come viene definita, edilizia controaerea, allo stesso modo di quanto si era già fatto negli anni precedenti con l'edilizia antisismica nelle regioni ovviamente dove c'erano stati i terremoti. Quindi un'edilizia che si va a specificamente a occupare di un determinato settore. Nelle città, io ho preso fuori alcuni stralci da questo regolamento, così vi do alcune informazioni. Si legge che nelle città si dovrà aumentare nella maggior misura possibile l'area scoperta mediante la realizzazione di piazze, larghe strade e ampi giardini. Questo al duplice scopo di ridurre il numero dei colpi utili in caso di bombardamento e di rendere possibile anche la costruzione di molteplici ricoveri provvisori a lato della mobilitazione. avevano previsto di fare qualcosa in previsione della guerra, ma poi anche di dover fare qualcosa velocemente nel caso che la guerra scoppiasse. La pianificazione urbanistica della Bolzano Nuova costituisce un valido esempio di questa nuova filosofia costruttiva. Infatti troviamo larghe piazze, larghe strade. Questa è Piazza della Vittoria, che è proprio l'esempio di questa tecnica che viene adottata in quegli anni. Per i cittadini dell'Alto Adige, l'incubo dei bombardamenti aerei incomincia a guerra già iniziata. Infatti, il primo bombardamento a Bolzano è del 2 settembre del 43. Tuttavia, però, già a partire dall'inizio degli anni 30, nella nostra città, come in molte altre città del nord Italia, iniziano i lavori per la predisposizione di rifugi antiaerei per la popolazione civile. Numerosi accenni a questi interventi li ritroviamo grazie alla stampa di quel periodo, che è un po' il testimone di quello che è accaduto in quegli anni. Già nel 1933 troviamo un primo riscontro sul quotidiano locale La Provincia di Bolzano. In quegli anni lì il giornale ufficiale era La Provincia di Bolzano, e in questo riscontro parla proprio di edilizia antiaerea, anche se comunque non si avevano ancora delle conoscenze architettoniche ben mirate, no? Si incominciava a parlare di edilizia antiaerea, quindi c'erano solo i primi accenni. Infatti il regolamento per la protezione antiaerea di tutto il territorio nazionale viene approvato e diventa esecutivo l'anno successivo con il Regio Decreto del 5 marzo 1934. Ai comitati provinciali viene demandato il compito di compilare un progetto di protezione antiaerea, quindi cominciamo veramente a parlare di un progetto per le città. Tali progetti dovranno essere distinte in questi progetti le operazioni e i provvedimenti da attuare in tempo di pace da quelli che potranno avere applicazione solo nell'atto della mobilitazione, cioè quello che avevo detto prima. Qualcosa si poteva fare prima, qualcosa si poteva fare solo quando la guerra sarebbe scoppiata. Nel 1935 iniziano in città i primi esperimenti di protezione antiaerea. E nel 1936, con il Regio Decreto numero 1062 del 14 maggio, viene approvato lo Statuto dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea, che viene spesso denominata come UNPAN, che poi è l'abbreviativo. Queste erano le persone preposte che si occupavano della protezione antiaerea. Con il Regio Decreto numero 2121 del 24 settembre del 1936 vengono sancite le norme circa l'obbligo dell'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione ad uso di abitazione. Quindi adesso incominciano ad arrivare gli obblighi. Finora si era parlato, adesso cominciano a dire: in ogni edificio che viene costruito nuovo è obbligatorio predisporre un rifugio antiaereo. Questo decreto riporta anche le prime principali norme tecniche per la realizzazione degli stessi. Poi chiaramente non ve li cito tutti, se poi qualcuno è interessato si va a prendere i decreti e si vede tutto quello che c'è dentro. Lo stesso anno, quindi adesso cominciamo ad andare molto veloce, a distanza di pochi mesi, siamo al 29 di ottobre, viene pubblicato un secondo decreto, il 2216, che contiene le disposizioni fondamentali in materia di protezione antiaerea. Con questo secondo decreto si comincia a dire alle persone come vanno progettate, come vanno costruiti i rifugi antiaerei. Parallelamente ai rifugi antiaerei, fin dall'autunno del 1937, l'ufficio di lavori del Genio Militare aveva provveduto anche all'installazione a Bolzano di un impianto di sirene d'allarme. Questa è una sirena che c'è ancora oggi a Milano, qui a Bolzano non ce ne sono più, ma erano uguali a questa, e si trovavano poi in tutta la città e anche nella zona industriale. Con la legge numero 2224 del 22 dicembre del 1938, quindi l'anno dopo, si approva la disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei, quindi oltre a quelli privati, adesso anche i ricoveri pubblici. Alle competenti amministrazioni dello Stato e alle amministrazioni delle province e dei comuni è data la facoltà di concedere per una durata non superiore ai 60 anni e mediante il pagamento di un canone annuo di lire 100 il sottosuolo dei beni di loro pertinenza a chi ne faccia domanda per costruire in detti sottosuoli locali da adibirsi a ricoveri antiaerei pubblici. Quindi inizialmente iniziano a offrire gli immobili pubblici per far costruire i rifugi antiaerei. Poi, con il peggioramento degli eventi, saranno le amministrazioni stesse che cominciano a costruire molto velocemente i rifugi antiaerei. Una cosa interessante la troviamo nel fascicolo 5 delle istruzioni sulla protezione antiaerea, che è pubblicato dal Ministero della Guerra nel 1938. Sono 5 faldoni che contengono tutte quante le normative su come vanno costruiti i rifugi antiaerei. Vi porto solo quello perché è interessante, perché qui a Bolzano abbiamo una testimonianza di questo. In questo fascicolo si legge che un locale chiuso senza rinnovamento d'aria è abitabile fino a che la quantità di ossigeno in esso contenuto non scenda sotto il 15% e quella di anidride carbonica non superi il 3% della cubatura locale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in caso di cubatura non sufficiente a garantire la sopravvivenza degli occupanti per più ore, quindi praticamente quasi tutti i rifugi, soprattutto quelli molto piccoli, creati nelle abitazioni, si deve ricorrere all'installazione di apparecchi per la rigenerazione e filtraggio e ventilazione dell'aria. E qui vediamo un esempio. Per garantire il funzionamento dei sistemi di aerazione e ventilazione di questi locali, anche in caso di interruzione elettrica, come avviene in bombardamenti, la prima cosa che succede va via l'elettricità. E quindi questi impianti erano dotati di apposite biciclette, erano come le cyclette che molti di noi hanno a casa per fare ginnastica, solo che queste servivano per produrre la corrente che faceva funzionare l'impianto. Perché ho portato questo esempio? Perché queste fotografie, questo impianto è presente qui a Bolzano. E lo troviamo nel rifugio antiaereo che, ahimè, non è aperto al pubblico, è chiuso, ma che si trova nelle case dietro Piazza Matteotti. Mi auguro, spero che un giorno possa diventare visitabile, perché è veramente una testimonianza molto importante di questo periodo, e sono ancora pochissimi in Italia gli impianti conservati così bene come questo che abbiamo qui a Bolzano. Importanti informazioni ai cittadini sulle modalità di realizzazione dei ricoveri antiaerei negli edifici esistenti vengono impartite sulla provincia di Bolzano del 5 settembre del 39. Chiaramente l'organo ufficiale per far sapere a tutti come venivano, si poteva fare, era il giornale. Allora non c'era internet, non c'era web, e quindi le notizie arrivavano a tutti grazie alla stampa locale. Ricoveri di fortuna dovranno essere ricavati nei locali scantinati con la massima resistenza statica, che soddisfi le condizioni di sicurezza di crollo dalle schegge e dagli aggressivi chimici. A tale scopo dovranno essere previsti il rafforzamento della copertura e delle pareti mediante l'utilizzo di legname stagionato. Ho trovato questa sezione perché è molto emblematica, fa vedere praticamente in piccolo quella che era la situazione di ogni rifugio antiaereo qui a Bolzano, ricavato nelle cantine, ossia vi erano delle travi di legno che puntellavano il soffitto per tenerlo su, vi era la porta blindata, una porta che ermetica, che veniva chiusa dove non passava l'aria, e poi vi era questo classico impianto che serviva per filtrare e rigenerare l'aria. Nel novembre del 39 iniziano i lavori di realizzazione del traforo del Virgolo. Sono 700 metri in galleria che tutti noi conosciamo perché ci passiamo sempre, è una delle arterie principali di Bolzano, passa per la galleria del Virgolo, quindi tutti noi conosciamo bene. Durante il periodo della guerra, questa galleria, insieme a un altro rifugio a cui si accede da metà galleria, diventerà il più grande rifugio antiaereo di Bolzano e sarà in grado di ospitare fino a 6.000 persone. Qui si vede la foto come oggi, la Galleria del Virgolo, è molto bella quella a fianco perché è una foto d'epoca dove si vede una barriera antischegge che veniva posizionata davanti all'entrata della galleria. Questo per proteggere le persone che c'erano all'interno in caso scoppiasse una bomba all'esterno. Intanto, mentre prosegue i lavori di realizzazione della galleria, nella città continua l'apprestamento dei rifugi e piano piano su tutti i muri cominciano a comparire frecce indicatrici dei ricoveri antiaerei. In ogni angolo della strada troviamo dei cartelli con la scritta rifugio e la freccia che indicava l'accesso dei rifugi. Qui a Bolzano sono stati bravissimi a cancellare tutto, abbiamo solo tracce di qualche, ancora c'è qualcosina che indica gli idranti, però hanno cancellato tutto. Per fortuna a Milano hanno tenuto tanto, anzi hanno anche addirittura restaurato molte scritte, quindi c'è proprio la possibilità di fare un giro a Milano proprio solo per andare a vedere tutte queste scritte sulle case. Qui a Bolzano non è andata così, quindi ho per forza dovuto prendere delle foto di Milano per farvi vedere com'era anche qua la situazione nella nostra città. Sempre grazie alla provincia di Bolzano, questa volta quella è il numero del 21 giugno del 40, troviamo un primo elenco dei rifugi cittadini. Complessivamente, leggiamo, sono stati contrassegnati 33 rifugi pubblici, ai quali vanno aggiunti quelli esistenti nelle case di nuova costruzione. Per case di nuova costruzione si intende la Bolzano Nuova, che erano già allora oltre una ventina. Poi leggiamo ancora che il numero dei rifugi è però suscettibile di ulteriore aumento, in quanto un'apposita commissione è al lavoro per esaminare ulteriori ambienti che potrebbero essere adattati a tale scopo. Quindi era... praticamente si continuava a lavorare, si continuava a cercare spazi, si continuava a cercare posti dove poter ricavare i rifugi antiaerei. Oltre ai rifugi antiaerei, vengono appuntate anche delle trincee nei giardini pubblici cittadini. Come il caso, ce n'era una molto grande nel giardino della stazione, quello proprio di fronte alla ferrovia. Adesso partirà il cantiere di Benco, tireranno su tutto, forse si riesce ancora, prima che tirino via tutto magari si trova ancora qualche traccia di questa trincea. Queste trincee cosa servivano? In caso di allarme antiaereo non a tutti era possibile raggiungere il ricovero antiaereo pubblico più vicino e quindi creavano questi trinceroni che erano coperti dove almeno uno poteva comunque andare a rifugiarsi. Io sinceramente nella trincea vicino alla stazione non sarei mai andato, anche perché tutti i bombardamenti sono stati fatti quasi esclusivamente in quella zona, però chiaramente se eri lì non facevi tempo a scappare. Mentre nel sottosuolo cittadino di tutte le città italiane, quindi anche Bolzano, si continuano a realizzare i ricoveri e i rifugi antiaerei, la protezione delle città contro le incursioni aeree, come abbiamo visto prima, la protezione attiva, è assicurata da un apposito apparato della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale. Questa specialità nasce il 16 aprile del 1927 con il nome di Milizia Artiglieria Contraerei. Nel 1930 viene ufficialmente costituita in Italia la Difesa Aerea Territoriale. La milizia era divisa in 22 legioni. Queste due 22 legioni si occupavano della protezione di tutta l'Italia. Qui è molto bello, ho trovato, chiaramente non sono foto di Bolzano, però sono foto dell'epoca che vengono dall'archivio dell'Istituto Luce, che ci fanno vedere proprio questi militi che stanno qui, stanno facendo delle esercitazioni con queste armi per la protezione antiaerea. La situazione qui intorno era molto analoga, dopo vedremo cosa è rimasto qui intorno di queste trincee, di questi posti. Come ho detto, anche attorno alla città di Bolzano vengono approntate le postazioni controllate dalla milizia. Quattro batterie antiaeree avevano preso posizione sulle montagne circostanti la città. Inoltre, nell'immediata periferia della città e nei pressi dell'aeroporto di San Giacomo, vengono predisposte ulteriori postazioni. Questa è la vista che si ha dai resti della postazione della contraerea che si trova su a San Genesio. Quindi vediamo giù proprio molto bene la città di Bolzano. Per allestire le postazioni dislocate sulle alture attorno a Bolzano, il comando della DICAT aveva utilizzato tutti i mezzi possibili, tra i quali ripetutamente anche le funivie esistenti del Renon, del Colle e a San Genesio, inizialmente per portare il materiale e soprattutto dopo per portare le munizioni. Questi sono i resti delle piazzole della contraerea che troviamo sopra l'abitato di Cornedo. Sono dentro nel bosco. Analoghe a queste le troviamo anche a San Genesio, le troviamo su Renon. Quindi se nelle vostre passeggiate vi imbattete in questi muretti circolari di pietra, non li hanno fatti gli uomini primitivi come qualcuno credeva, ma li hanno fatti i soldati ed erano le postazioni che servivano per la contraerea. Visti i disastrosi bombardamenti già subiti da molte città settentrionali, perché come ho detto Bolzano ha iniziato a subire bombardamenti più avanti, ma molte città di Bolzano hanno iniziato subito a subire grossi bombardamenti, quindi vedendo quello che stava succedendo in queste città, anche a Bolzano ci si rende conto ben presto che i rischi dei bombardamenti sono altissimi. E quindi il comune mobilita i suoi uffici tecnici, predisponendo progetti per adeguare il numero dei posti in ricovero ai bisogni della popolazione. Cioè ci si rende conto subito che i rifugi antiaerei sotto le case non erano sufficienti. Vengono così elaborati i progetti per 5 grandi nuovi ricoveri pubblici in galleria. Uno a Gries, nella zona ad est di quella che era la funicolare del Guncina, poi un altro lo troviamo ad Oltrisarco, dietro la zona, la via privata Rovereto, uno a Santo Osvaldo, ai piedi del Monte Tondo, uno a San Giacomo, dietro le case, quelle dove, praticamente quando si entra a San Giacomo, prima della, a destra c'è la farmacia, poi ci sono delle case sulla sinistra, se si va dietro queste case si vedono ancora gli accessi che entravano in questi, adesso sono stati chiusi, li hanno murati, comunque fino a poco tempo fa si poteva entrare. Adesso mi sono perso. Ah, ecco. Poi si parla di un quinto rifugio, sempre nella zona di Gries, però di cui non si trova alcun riscontro. Secondo me, per gli studi che ho fatto e per i giri che ho fatto a cercare questi rifugi, io credo che sia quello che è ancora esistente, che è molto grande, ed è dietro la caserma di via Vittorio Veneto. E questa è la foto del salone principale. Qui non si può accedere perché bisogna passare attraverso la caserma per entrare nel rifugio antiaereo. Però secondo me è quello. La costruzione dei rifugi fu approvata con lettera del 25 febbraio 1943 dalla Direzione Generale dei Servizi per la Protezione Antiaerea del Ministero dell'Interno, che oltre ad approvare la costruzione di questi rifugi se ne assume anche il costo. Con il Regio Decreto numero 39 del 18 febbraio del 43 vengono anche approvate le norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei anche negli edifici di vecchia costruzione. Quindi prima gli edifici di nuova costruzione, poi le gallerie delle montagne, adesso anche nelle case del centro storico di Bolzano arriva l'obbligo di predisporre dei rifugi antiaerei. Per le case di via Portici era molto semplice perché avevano due piani di cantine sottoterra, quindi forse quelli erano i rifugi antiaerei più sicuri, a parte quelli dentro nelle montagne, che quelli sicuramente sono, in caso di bombardamento, sono sempre i rifugi più sicuri. A giugno del 43 il peggioramento della situazione generale porta un nuovo impulso ai lavori. Si eseguono gli interventi di finitura interna del grande rifugio del Virgolo, si procede alla sistemazione definitiva dei rifugi esistenti e alla fase conclusiva della costruzione dei rifugi in caverna. Nelle ultime settimane sono apparse in tutte le vie della città sui muri grandi frecce bianche in campo nero con la lettera R, indicanti la direzione del rifugio più vicino. Questi sono sempre stralci presi dagli articoli dei giornali. Numerose sono le esercitazioni delle squadre di protezione antiaerea. Vi ho portato questa foto perché è emblematica di quello che era la vita all'interno di un rifugio antiaereo durante un bombardamento. La gente suonava la sirena, la gente doveva scappare, non sapeva quante ore sarebbe rimasta nei rifugi. Ci saranno poi, vi dirò, quando sono stati i bombardamenti, finiva l'allarme, la gente usciva, nel momento che usciva c'era la seconda allarme, quindi la gente ha passato anche 8-9 ore dentro nei rifugi antiaerei, quindi si portavano le coperte, si portava qualcosa da mangiare, si entrava e non si sapeva quando si sarebbe uscito. Questa è una foto, anche questa, di Milano. Non ho trovato delle foto dei Fuji di Bolzano. Se qualcuno ne ha una, a qualcuno, qualche nonno che magari ha fatto una foto, ben venga. In quel periodo sicuramente c'era altro da fare che fare fotografie, insomma, bisognava salvare la vita, quindi magari la macchina fotografica rimaneva a casa. Ok, ci siamo. Il 27 luglio del 43, a seguito della sfiducia di Mussolini da parte del Gran Consiglio del fascismo, l'autorità militare assume la tutela dell'ordine pubblico nel territorio anche della nostra provincia. Quindi incomincia veramente a esserci un clima molto pesante qui da noi. Infatti viene istituito il coprifuoco tra il tramonto all'alba. Arriva anche per Bolzano il momento di vedere che cos'è la guerra dal vivo. Infatti il 2 settembre del 43 il Bolzano subisce il primo bombardamento aereo. Sono 20 minuti circa dopo il segnale dell'allarme. 25 bombardieri provenienti dalla valle dell'Adige a quota 3000 metri fecero sentire il loro rombo e subito le armi della contraerea entrarono in azione. Spostatisi poi sulla destra della valle, gli aerei nemici sganciarono le loro bombe sulla zona di Loreto. Qui vediamo proprio le foto di quel bombardamento. Lungo tutta la via Garibaldi, in via Vittorio Emanuele, oggi è via Stazione, allora si chiamava via Vittorio Emanuele, in via Macello e in tutta la zona dei piani. Nei giorni successivi la situazione in Italia precipita. L'8 settembre il governo italiano chiede l'armistizio, l'esercito è al collasso e le truppe tedesche si impossessano della nostra città. I Blockleiter, che erano i fiduciari di quartiere del Partito Nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, vengono incaricati di accertarsi che in ogni casa sia presente una comunità di difesa antiaerea. Per ogni casa doveva esserci una persona che in caso di bombardamento si accertava che tutte le persone fossero entrate nel rifugio, quelle che erano in casa, che tutti avessero lasciato le finestre aperte in caso di bombardamento, che fosse stata tolta la luce e il gas, e poi poteva entrare anche lui nel rifugio antiaereo. Tuttavia ci si rende conto fin da subito che l'obiettivo di allestire rifugi in città in quantità sufficiente per tutta la popolazione era di fatto irraggiungibile. I più infatti dovranno accontentarsi durante i bombardamenti successivi della propria cantina. Tutti correvano in cantina, che poi questa cantina era più o meno stata adattata. Si andava in cantina e si sperava che una bomba non cadesse proprio sulla propria casa. Il 25 settembre Bolzano subisce il secondo bombardamento aereo. Nello stesso momento, dopo l'unificazione delle tre province di Trento, Bolzano e Belluno nell'Alpe Forland, gli attacchi aerei da parte degli alleati cominciarono ad essere sempre più incalzanti. Furono compiute due distinte fasi strategiche che diedero vita alla famosa battaglia del Brennero, forse qualcuno ne ha sentito parlare. E furono impiegati bombardieri appartenenti sia alla 12ª che alla 15ª Forza Aerea Americana. Questi bombardamenti provocarono la completa messa fuori uso della linea ferroviaria del Brennero. Qui bisogna fare un appunto, dire una cosa. Non è vero che gli alleati volevano bombardare le città, a loro non interessava colpire i civili. Lo scopo principale di questa tattica era quella di mettere completamente fuori uso la linea ferroviaria del Brennero. Bolzano ha la linea ferroviaria che passa in mezzo alla città, quindi si sono concentrati sulla città di Bolzano, ma il loro scopo era quello di rendere inoffensiva la linea Brennero. Non volevano attaccare i civili. I civili purtroppo ci sono finiti in mezzo. Tra il 6 novembre del 1944 e il 2 maggio del 1945, questo è il lasso di tempo in cui è durata la battaglia del Brennero, gli attacchi effettuati sulla linea furono complessivamente 370, a cui parteciparono ben 6.800 aerei, che scaricarono da Verona a Innsbruck 10.360 tonnellate di bombe. Quindi questi numeri bastano già da soli a far capire che cosa è successo qui a Bolzano in quegli anni. Qualcuno ha i nonni che gliel'hanno raccontato, molti di noi non l'hanno vissuto, però già questi numeri sono da soli, basterebbero. Vano fu il tentativo dei tedeschi di raddoppiare la presenza della FLAG che era subentrata alla DICA. Dopo l'occupazione tedesca non era più la milizia italiana che si occupava della difesa delle linee delle città e della linea del Brennero, ma erano subentrati i tedeschi che comandavano e quindi anche le loro truppe avevano preso il posto della milizia. Nel marzo del 1945 erano piazzati sulla linea del Brennero, quindi da Verona fino a Innsbruck, ben 525 cannoni, che però non sono serviti assolutamente a fermare i bombardamenti alleati. Presso quest'ultima organizzazione, parlo della FLAC, furono utilizzati, attraverso la chiamata obbligatoria al servizio di leva, anche molti cittadini altoatesini. Troviamo tanti cittadini di lingua tedesca. Io ne ho conosciuto anche uno che ha preso parte a queste operazioni, lui era sul Renon. Sono stati arruolati non volontariamente, quindi obbligatoriamente, e sono stati costretti a entrare nella FLAG. Attorno a Bolzano, l'artiglieria contraerea tedesca si insedia nelle postazioni che erano già prima della DICA e provvede anche alla realizzazione di nuovi siti. È certa la sua presenza a San Genesio, a Renon, a Corneto, sul Colle e sul Monte Macaion, grazie alle vistose rovine ancora esistenti ed alcune testimonianze appunto. Quella che vediamo a sinistra è un basamento per il telemetro. Il telemetro era uno strumento che serviva a rilevare la distanza degli aerei. Questa la troviamo su Al Salto, quando si fa la passeggiata del Salto, andando dietro, in mezzo alle collinette, troviamo ancora questo basamento. Mentre la prima a destra è la postazione molto grossa della FLAG che c'è sul Monte Macaion, vicino a dove c'è la palla, quella il radar. E queste qua sotto invece sono le postazioni che sono sul mio monte omonimo, perché sono sul Monte Pozza e sono dietro al Virgolo, la zona del Colle. Il 4 ottobre del 1943 Bolzano viene nuovamente bombardata. L'allarme durò dalle 11.45 alle 16.40. Furono due le ondate di bombardamenti e la seconda sorprese la popolazione all'uscita dei rifugi, cioè quello che dicevo prima. La gente stava uscendo, c'è stato il secondo allarme, hanno dovuto rientrare nei rifugi. Numerose furono le vittime. 64 bombardieri B-17 riversarono sulla città 165 tonnellate di bombe, che caddero un po' dappertutto e principalmente ovviamente nella zona della stazione ferroviaria. Andiamo avanti. Qui adesso i bombardamenti arrivano veramente a tappeto. A distanza di solo una settimana, il 10 novembre, le sirene suonarono nuovamente e Bolzano subisce il suo quarto bombardamento alle 11.05, quindi erano tutti bombardamenti di giorno. Bombardamento, anche in questo caso, che si svolse in due tempi, quindi due ondate, a distanza molto ravvicinata una dall'altra. Durante questo bombardamento fu danneggiato gravemente il Duomo, che ancora oggi porta le ferite. Se andiamo a vedere, sebbene sia stato ricostruito il Duomo, però se andiamo a vedere la parte nord, si vedono ancora i segni delle schegge delle bombe sulla parte alta. Il quinto bombardamento avviene poco dopo, il 2 dicembre, e ha conseguenze devastanti per la città. Obiettivo principale, anche in questo caso delle due ondate di bombardieri, era la stazione ferroviaria, ma le 94 tonnellate di bombe sganciate piovvero su un ampio raggio. In questo caso hanno sbagliato a fare l'ordine di sgancio e le bombe si sono disperse. Da Ponte Talvera fino a Sant'Osvaldo sono arrivate. In questo attacco morì anche, centrato in pieno da una bomba, l'allora prefetto Peter Hofer, che era il prefetto della città, era tedesco, e lui si trovava aveva la sede di comando, in quegli anni era al Palazzo Ducale. non era a Palazzo Ducale, ma stava andando a Palazzo Ducale e si è precipitato in pieno da una bomba. Il 15 dicembre suonarono nuovamente le sirene alle 12:20 e i bombardieri tornarono ad attaccare la zona della stazione sempre. Anche in questo caso il raggio d'azione partiva dal vecchio centro storico e si irradiava a tutta la periferia. Una bomba colpì la centrale elettrica di Bolzano e la città rimase senza luce e anche la linea del Brennero venne interrotta. Perché questi bombardamenti? Innanzitutto non esistevano le bombe intelligenti, quelli che vediamo oggi che vanno a centrare l'obiettivo, buttavano giù le bombe. Poi, siccome c'era la FLAC, quindi c'era la contraerea non era in città, era messa sulle montagne, e quindi gli aerei dovevano volare molto alti, e quindi quando sganciavano le bombe da quell'altezza è chiaro che poi si aprivano a grappolo e andavano dove andavano. Il 13 maggio del 44 la città viene bombardata per la nona volta. Durante questo bombardamento, avvenuto il primo pomeriggio, fu nuovamente colpito il Duomo, seriamente danneggiata la chiesa dei Domenicani, vediamo la foto a destra, e molte bombe caddero anche in piazza Walter, qui vediamo proprio com'era la piazza Walter quei giorni lì. Il 4 ottobre Bolzano subisce il suo decimo bombardamento. Anche in questo caso si hanno poche informazioni, anche perché con i bombardamenti che si susseguivano anche la stampa non riusciva più, sono state anche distrutte le sedi dei giornali, quindi le notizie cominciavano a essere molto frammentarie e si trovano anche molto meno notizie rispetto all'inizio. Però si sa che durante quel bombardamento cadono sulla città circa un centinaio di bombe che colpiscono il rione di Rencio e di Cardano. Lo stesso giorno furono bombardate anche Ora, Bronzolo, Laives e Fortezza. Ora soprattutto veniva bombardata perché cercavano di colpire il ponte sull'Adige della ferrovia, ponte che veniva colpito di giorno e ricostruito di notte dai tedeschi. Il capoluogo dell'Alto Adige, quindi Bolzano, viene bombardato nuovamente il 4 gennaio del 45, sempre colpita la zona della stazione. Anche il 16 febbraio un secondo bombardamento, anche qui colpita la zona della città vecchia, la stazione, e in questo bombardamento viene anche colpito pesantemente il municipio. Poi abbiamo un altro aspetto. Infatti in quegli anni numerose sono le incursioni solitarie, genericamente notturne, compiute dagli alleati in tutte le città del nord Italia, compresa Bolzano, con questo apparecchio da caccia notturna. Era il famigerato Pippo, che sicuramente molti hanno sentito nominare. A differenza dei grandi bombardieri, che colpivano da una quota molto alta, questo velivolo arrivava in volo radente. Arrivava fuori sulla Mendola, poi scendeva giù e velocemente arrivava verso la città. Questo perché così poteva evitare le contraeree e poteva sganciare bombe e mitragliare nel buio della notte indisturbato. Come poteva bombardare nel buio della notte? Poteva perché proprio in quegli anni cominciarono le prime installazioni sugli aerei dei radar, che proprio con questo aereo qua, cioè questo aereo è stato proprio utilizzato per sperimentare i primi radar, quindi funzionava, quindi hanno iniziato a usarlo. Quello del 28 febbraio fu l'ultimo bombardamento di Bolzano, 13 in tutto, cui però vanno sommate le numerose incursioni appunto di Pippo, che sono state solo sulla città di Bolzano ben 9. In Alto Adige le vittime dei bombardamenti alleati furono almeno 300, di cui si stima 2/3 solo nel capoluogo altoatesino, quindi 2/3 delle vittime che ci sono state in Alto Adige sono state di Bolzano. Nei 2 anni di bombardamenti, gli edifici rasi al suolo a Bolzano furono complessivamente più di 300, quindi completamente rasi al suolo. Quelli danneggiati in modo grave furono oltre 500. Quelli parzialmente danneggiati, ben 1.395. Dopo la fine del conflitto, il genio civile ha accertato che i danni causati dalle incursioni aeree su Bolzano hanno prodotto danni per 2 miliardi e 200 milioni di lire. Perché questi numeri? Non è che me li sono inventati. È che siccome, finita la guerra, il genio civile doveva risarcire le varie città per i danni subiti durante il periodo di guerra, sono state fatte delle contabilità apposta, dove sono state, si trovano all'archivio del comune di Bolzano, troviamo tutto, è stato tutto contabilizzato, tutte le spese, tutto quanto. Questo per noi è una fortuna, perché è l'unica testimonianza che abbiamo, queste delibere sono del 46, è l'unica testimonianza che abbiamo di quello che è successo realmente in quegli anni. Perché prima venivano sì fatte delle contabilità dei lavori così, però molto con i bombardamenti è stato distrutto, no? Quindi anche le contabilità dei lavori. E il genio civile ha ricostruito tutto e per nostra fortuna questi documenti sono visionabili e quindi abbiamo dei dati precisi su quello che è successo a Bolzano. Adesso ho quasi finito. Come avete visto dalle foto che ho fatto, numerose sono ancora le testimonianze visibili di questo periodo. Oltre alla facciata del Duomo di cui ho parlato, numerosi sono ancora i ricoveri antiaerei esistenti, più o meno noti. Ricoveri antiaerei in roccia, appunto le gallerie scavate nelle montagne, ricoveri tubolari, come quello che vediamo nella fotografia di destra, che erano dei tubi di cemento realizzati sotto le piazze. Ahimè, a Bolzano non ce ne sono quasi più, perché per far posto ai garage interrati hanno demolito tutto quanto. Poi abbiamo, come detto, numerose cantine del centro storico, alcune sono tutte cantine private, però alcune hanno ancora le testimonianze di quel periodo. E poi abbiamo le cantine ricovero delle nuove costruzioni, che sono in parte state trasformate in cantine, però in alcune troviamo ancora proprio dei... Ce ne sono alcune, ce n'è in via Bergamo, in via Milano, che sono rimaste ancora, vengono usate come cantine ma sono rimaste così come erano, c'è addirittura ancora, ci sono le porte, quelle antigas. Nelle delibere del comune di Bolzano, appunto come ho detto dal 43 al 46, che sono visionabili all'archivio storico del comune di Bolzano, si trovano numerose informazioni relative alla costruzione di ricoveri antiaerei pubblici nella città di Bolzano. Vi ho portato queste foto perché questo ricovero c'è ancora, ci sarà per poco, perché è il ricovero antiaereo che esiste sotto la scuola Longoni in via Diaz, che ahimè andrà demolita, quindi anche quello lo perderemo. I ricoveri pubblici realizzati a Bolzano furono in totale una settantina, più o meno grandi, ed erano in grado di ospitare ben 32.000 persone. Da un elenco reperito presso l'archivio, si apprende che i ricoveri antiaerei realizzati in città complessivamente furono più di 900, con una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadrati. Ultima cosa, oltre a questi ricoveri ad uso civile di cui abbiamo parlato, esistono a Bolzano due ricoveri in roccia per uso militare, che erano stati realizzati dai tedeschi durante il periodo di occupazione. Come detto, si erano insediati in via Principe Eugenio, dove adesso c'è il commissariato del governo, lì avevano il quartier generale, quindi avevano costruito due rifugi antiaerei in caverna. Uno è quello di via Fago, che è anche visitabile, e uno si vede solo una parte perché adesso ci ha ospitato dentro il reparto di radiologia della clinica Bonvicini. Io ho finito, spero di non avervi tediato, ho voluto darvi un po' di informazioni. Se avete domande, io sono qui, come ho detto ho portato alcune copie delle pubblicazioni, se le volete vedere sono qui, a vostra disposizione.